Chiesa Cattolica nel giudicare gli uomini non si offre a svolgere il ruolo del giudice che emette sentenze sommarie, non verificate, una specie di plotone di esecuzione che a partire dalla morale arriva direttamente a delle conseguenze molto concrete di eliminazione del colpevole. E questo non è quello che si legge nella prolusione di Bagnasco, si legge tutto il contrario. A mio parere è una prolusione molto in linea con quella che è la tradizione della Chiesa nell'affrontare questioni di questo genere. Cioè la Chiesa distingue da sempre il peccato dal peccatore. Con il peccato è inflessibile e non c'è nessun dubbio di quello che pensi la Chiesa sui comandamenti di Dio, compreso il sesto comandamento: non commettere atti impuri, non fornicare. E nello stesso tempo però la Chiesa nel confronto del peccatore esercita sempre il ruolo di chi perdona naturalmente chi accetta il perdono, chi si pente.